perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Milan, Veronica, salutate Milano, saluti, ciao ciao. Non c'è di meglio la mattina che sentire Veronica accalorata. A me fanno incazzare quelli che viaggiano sull'autostrada impegnando la corsia centrale e non si spostano nemmeno se gli lampeggi, se i tir li superano a destra. Sai che per Natale regalerò il termometro Bellucci al signor Leonardo. Questi sono i nostri ascoltatori, i nostri funamboli. Siamo nuovamente qui, l'ultima settimana prima di Natale, alle 9:09 minuti. Veronica, buongiorno, eccoci, siamo in diretta. Tutto bella bene. Barbie? Sì. No, mamma mia. Ti avevo chiamato sciocchina, ti avevo chiamato biondina, ma Barbie non mi era ancora venuto in mente. Vabbè, vabbè. E invece so da oggi arrivare. Tu sei Barbie, capisci? Vabbè, no, chiariamo agli ascoltatori adesso, non pazziamo, allora, ecco. Allora, diciamo anche una Barbie in posizione di sudditanza rispetto a Ken. Cioè, qui le pari opportunità non sono ancora arrivate nel gioco, no? Eccola là. Occhio alla posizione di Bessa, che è regolare, Bessa la gioca dentro, Cáceres, non ci arriva Ken! Nell'angolino, raddoppiato Lellas! Nell'angolino Barbie. Non ho parole, va bene, dai. Sul calcio nessuno può mettere Barbie in un angolo, ma tranne Ken. A me il calcio non è mai interessato più di tanto, quindi ho visto però che c'è un progressivo allontanarsi dal calcio, il calcio? Vedo che gradualmente stai prendendo le distanze emotive, perché quando si soffre troppo si fa così. Ma, vabbè, il calcio. Del resto ieri è stata un po' una riscrittura del Romeo e Giulietta, lo vogliamo dire? In cui Romeo è sopravvissuto e soltanto Giulietta ha fatto la fine del sorcio. Dai, le 9:10 minuti, quest'anno il campionato di calcio va così. Meno male che ci rifaremo strionfando a mani basse, ovvio, in Europa League. È così. È così, ma meno male che ci sono i funamboli che vinceremo. Ti danno tante soddisfazioni e tante felicità. Esatto. Perché se dovessi aspettare il Milan. È così! È così! Protestate pure, ma è così! Vinceremo l'Europa League alle 9:11 minuti, l'ho detto e lo ribadisco anche oggi. Mi dai. Suggeriscono dalla regia Serie B. È così! È così! Ma no, è adesso, così! Ma non fare la canita sul calcio, che tu lo vivi in maniera distaccata. No, guarda, anzi, io mi devo anche applicare la domenica sera e dire che avranno combinato. No, è bello perché mi scrive nelle chat dire: ma è vero, tipo alle 6 di sera, ma è vero che il Milan ha perso anche oggi? Ecco, questo è l'interesse che hai del calcio. Era successo 4 ore prima. Che poi il dubbio amletico è: ma o io ti ho portato una sfiga proprio? No, fino a questo... queste cose non si dicono manco no. per scherzo. Chiaramente era un gioco, però voglio dire, non essendomi mai occupata di... Non è così. Dai, allora oggi dobbiamo andare un po' di corsa, sono le 9:11 minuti, vogliamo subito buttarci nei temi funambolici che vogliamo affrontare. Oggi, cari italiani, attenzione, perché parliamo di un tema che purtroppo, devo dire, tocca tutti noi, cioè la salute, purtroppo, nel senso che a volte la salute non c'è. Però ne vogliamo parlare partendo da un dato che ci ha molto colpito. Pensate che 15 milioni di italiani cercano informazioni sul web quando hanno un problema. Vanno da Dottor Google, qualcuno l'ha definito così. Incredibile, sì. Devo dire che i rapporti del Censis ultimamente ci stanno fornendo un sacco di spunti e ispirazioni, eh? Sì, ma davvero gli italiani vanno lì e si informano sullo stato di salute? Io devo dire, per carità, andate a informarvi se volete, una curiosità, ma quando questo sostituisce il medico è addirittura una pazzia. No, ma questo è l'aspetto più interessante che andiamo a vedere. Quali sono i benefici del potersi informare senza avere più quella che si chiama appunto la cosiddetta intermediazione? Quali sono invece i potenziali aspetti deleteri? Esatto, partiamo da qui. Allora, è così. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Pensate che di recente c'è stato un dottore che non è stato identificato all'Istituto dei Tumori di Milano, non è stato identificato perché il cartello è stato rimosso, che ha messo una frase che suonava più o meno così sulla porta del suo studio: se siete andati, cari pazienti, a cercare una diagnosi su Google e volete un nuovo parere, andate su un altro motore di ricerca. Ovviamente era una frase molto provocatoria, come dire, di ribellione contro i tanti italiani che si informano e pretendono di avere una diagnosi precisa da internet. No, perché probabilmente ormai ce ne sono anche molti che arrivano dal medico successivamente, no? Dopo aver essersi fatti da soli la diagnosi, e quindi pretendono che il medico la confermi o la smentisca, contrapponendo loro un parere, no? Come se fosse un parere scientifico. Come un parere medico. Allora, professor Giuseppe Remuzzi, buongiorno. Buongiorno Remuzzi, eccoci. Ci sente? Adesso, benissimo. Eccoci qua, direttore benissimo dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche al Mario Negri, amico di Radio 24, il pubblico di Radio 24 lo conosce. Con lei vogliamo salutare anche Sabrina Barbieri, che è vice direttore di Star Bene. Mondadori, buongiorno, grazie di essere qui, Barbieri. Buongiorno a voi. Allora, Remuzzi, intanto, ma cos'è? È l'antiscientificità che un po' si diffonde in Italia che spinge, secondo lei, molti italiani a cercare una diagnosi su internet? Ma no, è che le cose stanno cambiando. Una volta Socrate si arrabbiava quando le persone volevano scrivere, pretendevano di scrivere, perché diceva: così si perde la memoria, se noi cominciamo a scrivere non ci ricorderemo più le cose. Infatti è stato un po' così, ma si sono guadagnate tante altre cose. Internet è uno strumento meraviglioso. Molti malati passano ore in internet, sanno già molto della loro malattia, dei centri migliori, delle terapie più moderne, l'avete già detto voi. Allora, è sbagliato? Io penso che non sia sbagliato affatto, perché più un malato è informato, più è facile curarlo, e questo è particolarmente vero quando non ci sono abbastanza dati per sapere qual è la cosa giusta da fare. Parliamo di malattie gravi, parliamo di malattie rare, parliamo di tumori difficili da curare, parliamo di certe leucemie. E naturalmente curare un malato informato è più facile se sei bravo. Comporta che devi studiare di più, che devi essere aggiornato. In realtà internet fa più bene al medico che agli ammalati. Però lei la vede in modo positivo, cioè utilizzato come informazione. In alcuni casi è una sostituzione del medico. In ma secondo lei c'è anche un risparmio di tempo? Nel senso anche un risparmio di tempo, e soprattutto migliora tantissimo il rapporto medico-malato se lo facciamo bene. Certo, poi si può fare male. E allora, se voi pensate ai blog, alle cose per l'influenza, al fatto che tutti si influenzano uno dall'altro, sul fatto che le vaccinazioni siano negative, però se noi guardiamo l'aspetto generale, la maggior parte delle informazioni su internet sono molto positive per il rapporto medico-paziente, purché il medico sia bravo, dedicato, capisca, lo faccia con lo spirito giusto. Ma non sono io che vedo la cosa così, è stata studiata questa cosa, è studiata molto bene. C'è per esempio un lavoro che è stato appena pubblicato del 2017, fatto da ricercatori di Singapore, che hanno messo insieme tutte le informazioni possibili che si riferiscono a decine di migliaia di pazienti e che vengono da studi pubblicati, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma in Australia, a Taiwan, in Israele, in Arabia, ce n'è uno in Italia anche. Ecco, tutti questi studi alla fine fanno vedere che le informazioni che vengono da internet migliorano il rapporto tra il malato e il suo medico. Lei dice migliorano perché? Nel senso, c'è un rapporto di fiducia oppure perché c'è un'agevolazione nei confronti del medico? Cioè, io porto una pseudodiagnosi che mi sono già fatta e quindi in qualche modo mi avvantaggio sul lavoro del medico perché gli offro un maggiore quantitativo di informazioni. Certo, impari a fare le diagnosi, le domande giuste, hai meno paura, cominci a conoscere i termini, diventa tutto veramente molto più facile. Esatto. Il problema non è il malato, secondo me, anche perché poi questi studi fanno vedere che nell'80% dei casi il malato si rivolge comunque al medico, non perde assolutamente la fiducia del medico. Questo è fondamentale, perché anzi, è bello perché intrattiene il medico sta cambiando, il medico cambierà, dovrà cambiare. Volete un paradosso? Tra un po' non ci saranno più malati, nel senso di pazienti, e non ci saranno più medici, perché la diagnosi ci sono dei computer che sono in grado di farla adesso, E quindi in teoria i medici serviranno di meno, qualcuno dice non serviranno più. Beh, insomma, i pazienti non saranno più pazienti, perché saranno attivi, saranno informati, certo, questa è un'esagerazione. Ruoli però intercambiabili, quando... il medico che diventa paziente e viceversa, perché chiaramente... Beh, certo, ci vuole pazienza per un malato che è informato, però certo. Anche quello è molto bello. Sapete qual è il grande problema? Il grande problema è che i medici non parlano sì. con i malati, non sanno generalmente parlare con i malati, un po' perché nessuno glielo insegna, ma anche a parlare con i malati ci vogliono delle caratteristiche, non vanno bene tutti. Il fatto che Alessandro Milan legga i giornali come nessun altro al mondo è capace di farlo, come diceva una storiella, è prima cosa è vera, seconda cosa non si applica a tutti, e così è la medicina. Non è che tutti sono capaci, uno deve essere un po' portato. Certo, vediamo di capire con Sabrina Barbieri, che ha chiaramente un punto di osservazione interessante, quali sono le patologie, le malattie, le diagnosi che gli italiani cercano di più, secondo lei? Quelle magari di malattie, non so, raffreddore, influenza, cose meno serie? Più che altro serie, piccoli disturbi, non cose... Sì, direi piccoli disturbi. Noi abbiamo i dati del nostro sito, starbene.it, che viene visitato da quasi 2 milioni di persone al mese, e quindi vediamo proprio quali sono le ricerche più frequenti. La menopausa, che non è un disturbo, non è una malattia, ma insomma è qualcosa, è un periodo della vita in cui i disturbi aumentano. Tiroide è un'altra parola molto ricercata, e devo dire che anche la tiroide effettivamente apre un mondo dove... insomma, entrano dentro tantissimi disturbi, le diagnosi sono difficili, quindi è comprensibile che le persone che pensano di avere un problema vadano a cercare. Io sottoscrivo in toto quello che ha detto il professor Remuzzi, cioè internet viene veramente in aiuto, perché ci chiarisce le idee, perché ci aiuta a fare le domande giuste ai medici. Beh, questo è importante. Insomma, io pensavo che fosse più la questione di dire, insomma, visto che è tanto di moda, le fake news, no? Cioè, no. Quelli che vengono fuorviati, no, nelle loro ricerche. Ma infatti sono due aspetti quelli che secondo me emergono da questa ricerca del Censis. Uno è il grande valore dell'automedicazione intesa in quest'ottica, quindi si parla di 15 milioni di italiani che ormai si curano così, però si parla poi di 8,8 milioni che sono stati vittime di fake news nel corso dell'anno relativamente al tema salute, per cui è chiaro che ci sono due facce in questa medaglia. Però una faccia è negativa, perché se no quel medico, quell'oncologo barbieri ha messo, secondo lei, quel messaggio provocatorio, cioè dire se avete già fatto la diagnosi su Google, andate su Yahoo se ne volete una seconda, invece di venire da me. Ma perché è ovvio che alcuni medici, per carità, non sto parlando dell'intera categoria, sono infastiditi dal paziente che va là e che sembra di sapere, che mostra così di saperne di più del medico, e ovviamente, cioè, mi sembra anche una reazione abbastanza naturale. Però è anche vero che, racconto proprio un'esperienza di una nostra lettrice, succedono cose di questo genere. Una lettrice ci scrive, noi abbiamo un servizio, proprio chiedi all'esperto, dove si possono fare domande direttamente a medici di varie specialità, e lei scrive: sono andata dal mio medico per un problema di reflusso, ho il reflusso gastroesofageo, ho detto ma come devo mangiare? E il medico dice: ah, se volesse stare attenta a quello che mangia, a questo punto non dovrebbe più mangiare niente. Allora, e questo è un atteggiamento sbagliato. No, lei questo è quello che diceva il professore prima, che i medici talvolta possono essere così, come dire, un po' rudi, un po' brutali, o non avere molta psicologia. No, ma no, non tutti. Però guardate, a noi è colpito, no, da una parte appunto molti cercano e si informano, stiamo scoprendo che è una cosa positiva, arrivano più informati davanti ai medici, si informano sulle diagnosi andando su internet, e ci chiedevamo, facendo la trasmissione, ma quanto ci si può fidare delle diagnosi su internet? Pensate, e qui vogliamo introdurre un terzo ospite che ci ha ascoltato con pazienza finora, ci possiamo fidare allora delle diagnosi fatte da un cane? Questa è la domanda che, messa così, uno posta dice: ma così, come, cioè, la diagnosi fatta da un cane? Ma vogliamo salutare il tenente colonnello veterinario del CEMIVET, il Centro Militare Veterinario dell'Esercito, a Grosseto, a sede. Lorenzo Tidu, buongiorno e grazie di essere con noi, perché questa storia ci ha molto colpito. Lei, no, non so se dire se è lei il padrone, insomma l'esercito è il padrone di Liu, che è un cane di che razza? Sì, è un cane pastore tedesco, femmina, È stato precedentemente addestrato come cane Explosive Detection Dog, cioè un cane che ricercava le mine in teatri operativi. Sì. E in seguito è stato appunto scelto per verificare se era attendibile quello che c'era in letteratura in passato, cioè fatti anecdotici, del cane che poteva sentire alcune patologie attraverso l'olfatto. Ragazzi, ma guardate che questa, no, ma è straordinaria, cioè può sembrare una pazzia, è una cosa invece, incredibile. Invece è così, è il cane molecolare, cioè cosa fa l'IU, questo pastore tedesco femmine? Ma soprattutto come fa, cioè come si può riconoscere una molecola tumorale, per esempio, leggevo, attraverso l'olfatto? Sì, noi abbiamo fatto questo lavoro, ormai da 5 anni lo stiamo portando avanti e abbiamo ottenuto dei dati scientifici inattaccabili e li abbiamo pubblicati anche in The Journal of Urology, che è la migliore rivista internazionale di urologia. Abbiamo dietro chiaramente un ospedale serio, Humanitas di Milano, col professor Taverna che ha pilotato questo progetto e ci ha indirizzato verso questi risultati. Noi abbiamo testato più di 3.000 pazienti, ma non direttamente il paziente, cioè noi utilizziamo le urine dei pazienti affetti da cancro prostatico, in cui è presente evidentemente un odore che noi chiamiamo VOX, cioè dei composti organici che probabilmente possono essere volatili, di conseguenza noi li conserviamo attraverso il freddo, quindi da Milano a Grosseto i campioni urinari provengono attraverso la catena del freddo, cioè non devono mai essere decongelati in maniera tale che questo principio odoroso non venga liberato in ambiente. E l'IU li riconosce, cioè riconosce questo. Ma sì. È capace di riconoscerli prima ancora che li possano diagnosticare gli esami? Ma ascolti, questo ancora non è del tutto chiaro. Cioè del tipo i cani riconoscono nel 100% i campioni urinari provenienti da soggetti affetti da cancro prostatico. Sì. E questo è assodato perché appunto abbiamo testato tantissimi campioni. Ora, esistono dei falsi negativi, cioè l'IU ha segnalato alcuni campioni che erano indirizzati verso la biopsia prostatica, cioè significa che avevano alcuni parametri per cui erano soggetti ad effettuare un ulteriore studio che era la biopsia prostatica. Sì. Ora, bisognerebbe vedere se questi pazienti in futuro svilupperanno il cancro prostatico e il cane abbia segnalato in anticipo la presenza della molecola. Questo lo dobbiamo ancora verificare. Lo si scoprirà. Quindi il discorso è tenere sotto controllo dei casi che vengono evidenziati. Però, non so, allora, il professor Remuzzi, esatto, tra l'altro è nefrologo, se non sbaglio, come specialità, professore, mi corregga se sbaglio. Non so se questa è una ulteriore nuova frontiera, per carità, noi qui siamo una trasmissione di funamboli, quindi questo mi sembra proprio funambolismo, ma insomma l'idea che anche il cane, un cane possa addestrato servire a fare una diagnosi anche così preventiva, in questo caso il tumore alla prostata, professor Remuzzi, non so. Lei ma come... questa è una cosa seria, è stata pubblicata in letteratura, esiste ed è stata confermata anche, questo non è l'unico cane che è in grado di fare, questo probabilmente è uno dei più bravi. Il limite di questa cosa è che quanti cani lo sanno fare, perché se è un cane solo è chiaro che la possibilità di fare questa diagnosi si riferisce solo a poche persone. Poi invece può diventare un progetto di ricerca, si tratta di capire quali sono le molecole che riconosce l'olfatto del cane e trasformarle in un test che non prevede il cane ma una macchina che ha la stessa capacità di identificare queste molecole che ha l'olfatto del cane. Insomma, però è una frontiera, sì, è chiaro, se sono pochi, se fossero anche pochi nel mondo. È certamente una frontiera di ricerca. Il limite di tutto quello che era stato pubblicato in questo campo è che molti dicevano, beh, però come facciamo ad avere abbastanza cani che possano fare tutto questo? E in ogni caso ci sono delle sostanze che sono riconosciute dall'olfatto del cane che possono essere identificate. Una volta che le abbiamo identificate, poi ci sono gli strumenti di spettrometria di massa o altri strumenti che li possono riconoscere allo stesso modo. Quindi potrebbe diventare una prevenzione d'avanguardia. Assolutamente, apre un bellissimo progetto di ricerca. Senta professore, un'ultima cosa, ma per capire rispetto invece all'aspetto delle fake news, che è l'aspetto su cui ci siamo focalizzati meno, che è l'unica parte che potrebbe diventare un tallone d'Achille in questo invece circolo virtuoso di automedicazione, lei rispetto a quello che tipo di provvedimenti prenderebbe? Cioè, quale potrebbe essere un sistema secondo lei per arginare? Beh, bisogna aiutare le persone a capire che si devono fidare dei siti istituzionali, vanno esclusi i blog, per esempio c'è un servizio sanitario inglese, questo si applica a chi è più colto, che è fantastico, lì sì, c'è veramente tutto, l'Istituto Superiore di Sanità sta creando un sito simile, c'è un buon sito del Ministero della Sanità, per le malattie rare c'è Orfanet, per la Lombardia c'è il Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare dove si trova tutto. E poi ci sono siti rispetto ai tumori, alle leucemie, alla sclerosi multipla, che sono fatti molto bene, c'è un sito fatto abbastanza bene anche di Teleton. Quindi certo ci si deve fidare di siti soprattutto istituzionali e poi conoscere l'autore, chi è, da dove viene, ma ormai le persone, soprattutto i giovani, perché quelli che prendono grande vantaggio delle conoscenze di internet sono persone, secondo questi studi che vi ho citato, sì, perché i millennials, esatto, anni. Ma anche quelli più piccoli, cioè sembra ma che sì, loro in realtà ne facciano un utilizzo piccoli, enorme. Sì, quelli più piccoli di solito non sono malati, quindi bisogna stare attenti che poi quelli piccoli non abbiano problemi di ipocondria e non si ammalino a forza di guardare in internet, perché c'è esatto, anche c'è anche questo, perché e guardate, questo se fate questo esperimento, che ne so, vi viene una macchia sulla pelle, andate macchia sulla pelle, nel giro di 6-7 click potrebbero uscire delle cose terribili, cioè che se uno si fa condizionare, se uno le prende per fede senza andare da un medico. È altresì vero, professore, lei mi conferma che ci hanno sempre detto di non leggere i bugiardini dei medicinali in maniera spasmodica, perché sappiamo che gli effetti collaterali di un farmaco, se leggi il bugiardino, ti vengono tutti. Vabbè, ma è chiaro, ma no, almeno a me tutti, proprio no, tutti. Vabbè, questa che scadiamo nell'ipocondria, è chiaro che qualsiasi farmaco, come detto, ha degli effetti collaterali. Però noi nel ringraziarvi, perché ci avete dato degli spaccati anche molto interessanti di capire intanto che appunto può essere, come tutto, può essere un'opportunità, può essere anche un rischio, ma anche un'opportunità. Quindi che 15 milioni di italiani vadano a cercare informazioni relative alla salute sul web può essere un'opportunità, come ci ha spiegato bene i nostri ospiti. Oltretutto, Ale, segnalavano anche che c'è un enorme beneficio anche per le casse dello Stato, come risparmio di tempo e anche di risorse, perché pare che 17,6 milioni di italiani si siano curati e siano guariti da piccoli disturbi, sì, non andare, evitando di perdere giornate di lavoro e senza dover ricorrere a risorse dello Stato. Allora, quindi in realtà può essere un meccanismo benefico. Noi chiaramente nel ringraziare il professor Giuseppe Remuzzi, Sabrina Barbieri, vice direttore di Starbene, e il tenente colonnello Lorenzo Tidu, per il quale molti chiedevano ma come fa il cane, esatto, a segnalare. Un'ultima curiosità ce lo dice, cioè quando segnala cosa fa? Proprio glielo dico, abbaia in un certo modo, come si agita, come fa tenente colonnello Liua dire c'è qualcosa che non va? Presentante l'odore appunto del tumore prostatico, fa il seduto e questa è la segnalazione. Il seduto, ma straordinario, cioè si siede, questa ma si siede, sì. Ma è incredibile. Ma questo è un retaggio, perché chiaramente per la segnalazione degli esplosivi era l'unica modalità per poterlo segnalare. Non poteva essere né l'abbaio né il terra, insomma, perché poteva essere pericoloso per l'innesco degli esplosivi. Invece il seduto è una giusto modalità, perché esatto, abbaiando potrebbe innescare con il suono una mina quando serviva. Ma questo quanti anni ha Liu? Adesso ha 9 anni, ha iniziato il lavoro quando ne aveva 4. Il lavoro, speriamo che siano tanti, come ha detto il professor Remuzzi, perché chiaramente non sarà facile addestrare. Sì, in contemporanea era stata addestrata anche un'altra cagna. Adesso ne abbiamo altri in addestramento che stanno seguendo questo iter formativo. Insomma, va bene. Ovviamente grazie per averci regalato anche questo spaccato molto particolare, Lorenzo Tidu. Noi, Veronica, dobbiamo dare un attimo in pubblicità, ma sai che oggi è la scadenza dell'ICI, insomma, dell'IMU, io la chiamo ancora ICI, dell'IMU, della TASI, tu hai tutto da pagare, avrai seconde e terze case. Io adesso devo pagare, anzi, se possiamo sbrigarci stamane, perché devo andare a pagare le tasse per il mio castello, il mio terzo castello. Ammesso che non lo faccia il maggiordomo, ma non gli ho dato la delega. La questione è molto seria, per alcuni comuni, soprattutto avremo tra poco il sindaco di Sestrier, quei comuni soprattutto dove ci sono case di villeggiatura, quindi le seconde case, visto che sapete che sulla prima casa non si paga più, perché i comuni dove ci sono molti proprietari di seconde case protestano, fanno una protesta molto vibrante nei confronti del governo centrale, ci spiegheranno tra poco perché e vedremo. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali che trovi sul sito uromitalia.it.

Non lo so. Non è chiaro. Robe strane. La domenica la gente mangia pesante e poi dopo manda messaggi. Comunque fatelo al 349-238-6666. Potete mandare i vostri messaggi. Potete anche chiamarci dove, Veronica? Te lo ricordi? Non me lo ricordo. No, 800. Ma che fai? Mi confondi? Un numero, so. 800-24-0024. Ecco, li chiamate. Comunque oggi la Gazzetta dello Sport ce l'aveva con te come titolo. Sì, devo dire che il titolo della prima pagina della Gazzetta dello Sport lo ritaglio e me lo metto sul frigorifero. Come dice? Credevo di averlo fatto io. Come dice? Milan, dignità zero. Siamo di fronte alla cialtroneria pura. Presidente De Luca, ringraziamo. D'altronde vinceremo l'Europa League e questo si sa a mani basse. A mani basse, lo dico anche a Mauro Meazza e c'è una conferma anche di un ex ministro. Come mi sono divertito. La conferma dell'ex ministro. Guarda, come vinceremo l'Europa League. È così. Protestate pure, ma è così. Allora, dopo dicono che ci stiamo trasformando dopo in tutti convocati. Dopo abbiamo una telefonata con Brunetta, no? No, non abbiamo una telefonata con Brunetta, ma vogliamo salutare il sindaco di un comune. Il sindaco di un comune, per la precisione, il comune Sestriere, provincia di Torino. Walter Marin, sindaco, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo chiamato lei perché insomma rappresenta in qualche modo i vari comuni cosiddetti turistici, nel senso comuni in questo momento vedono anche un afflusso di persone pronte a scattare lì per il Natale. Comuni considerati turistici. Già comuni abbienti, come dire. Sì, abbienti, insomma, diciamo che ci sono diversi. Secondo l'opinione pubblica così disattenta. Ci sono però diversi proprietari di seconde case, questo ce lo può dire sindaco, ovviamente. Molti hanno la seconda casa lì, quelli che se la possono permettere. Cosa succede? Che sulla seconda casa va pagata ovviamente l'IMU. Oggi tra l'altro scade, no? Ho visto che si aggirava Mauro Meazza e lui sa tutto. dopo va in onda il nostro Mauro Meazza. Potrebbe confermare. I comuni turistici però sono un po' in rivolta nei confronti del governo centrale. Ma perché? Cioè non vi danno i soldi? Nel senso che se li trattengono i soldi dell'IMU che gli italiani versano? Ma oltre che siamo in rivolta siamo arrabbiatissimi. Perché? Perché riteniamo che lo Stato ci stia a tutti gli effetti fregando e sostanzialmente rapinando, proprio per dire la parola giusta. Per semplicità faccio questo: prima si chiamava ICI, sì, l'imposta comunale, ci vuol dire comunale immobili, adesso è diventato IMU, imposta municipale, quindi c'è sempre il comune in mezzo, unica, ok? Sì. Allora vuol dire che è nata come legge per quanto riguarda una tassa a tutti gli effetti al 100% comunale. E invece non vi arrivano quei soldi. Invece non è così, perché comunque a livello nazionale l'incasso dell'IMU non va tutto ai comuni, quindi c'è una quota cosiddetta fondo di solidarietà, quindi che correttamente noi riteniamo sia giusto versare, che vada a livello centrale per eventualmente, come dire, riequilibrare un attimo su quelli che possono anche essere i comuni magari un pochino più in difficoltà. Però se fosse solo quello, quindi un prelievo che va all'incirca attorno al 23%, non ci saremmo arrabbiati. Mentre in realtà le do due dati. Sì. Noi facciamo un servizio di IMU in forma associata come Unione Montana Comuni Olimpici di Lattea. Sono sei comuni, sono 4.300 residenti, però sono 5.500 posti di lavoro e 12.000 posti letto alberghieri, quindi è un'industria. Chiaro. Certo. Chiaro? Ci dica di che percentuale vi è arrivata dei soldi? Allora, i sei comuni assieme, che incassano indicativamente 13 milioni e mezzo di euro complessivamente, girano allo Stato 7 milioni di euro, quindi siamo oltre il 50%. Questa allora, è la rapina. Ma è possibile che non si siano resi conto nel momento in cui hanno deciso di ritassare nuovamente queste seconde case di tutto quello che lei ci sta raccontando? Ma secondo me non è che non si siano resi conto, solamente chiaramente che è scomodo, perché nel momento in cui non vanno a verificare che è vero che ci sono molte seconde case, ma mentre uno magari ha un ufficio che fa carte d'identità, l'ufficio anagrafe per il numero dei residenti, quindi io parlo dell'Unione dei 4.300 residenti, ma quando devono pagare le tasse, quindi la tassa raccolta rifiuti, l'IMU. In realtà i tuoi uffici sono dimensionati per, calcolate che noi, sei comuni, abbiamo più di 23.000 unità immobiliari, che vuol dire una città come Vercelli. Ma se voi andate a vedere Vercelli piuttosto che un'altra città di qualsiasi Italia, di circa 100.000 abitanti, a tutti gli effetti, quell'ufficio che fa le tasse, il cosiddetto ufficio tributi, è ben sovradimensionato rispetto a quanto abbiamo noi. Sì, diciamo, sindaco, che ci sono, se non sbaglio, 572 sindaci che sono un po' nella stessa situazione, che stanno in Italia, esatto, che stanno protestando. Ma ecco, mi faccia capire l'iter, ce lo faccia capire agli ascoltatori, e se io pago un euro di questa IMU, va direttamente, va ai comuni e ne versate una parte allo Stato? Va allo Stato e lo Stato non ve li dà? Ecco, è questa la questione. Perché, ad esempio, gli alberghi di tutta Italia, prima veniva totalmente incassata la tassa sugli alberghi l'IMU ai comuni, oggi invece i comuni non la incassano nulla. No, chiaro, arriva, diciamo che arriva a Roma e se ne trattengono un bel po', ecco, questa è la rapina. Se ne trattengono il 100%, sugli alberghi trattengono il 100%, non il 30-20%. Vabbè, 40. Ma visto che voi avete ragione in punta di diritto, no? Perché dovete dare solo il 23% e vi ne trattengono, nel suo caso, ci hanno detto, in questi comuni circa il 50%. Oltre il 50% nel nostro caso. Come la mettiamo? Cioè andate... Andate col passamontagna a Roma farvi ridare il bottino. Volete ricorrere? Sì. No, noi abbiamo fatto già un ricorso. Noi abbiamo fatto un ricorso come Unione dei Comuni, sei comuni, al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva stabilito dissennatamente queste aliquote sbagliate. Il TAR Lazio ha dato ragione a questi comuni e noi abbiamo anche sollevato l'incostituzionalità di questa norma. Ma io dico, ma siamo il paese dei ricorsi e lei ha anche ragione. Ma perché uno deve arrivare, se c'è una legge scritta chiara, se mai ci fosse una legge scritta chiara, a fare un ricorso al TAR? Perché Alessandro, ci imbattiamo in queste cose un giorno sì, un giorno no. Ho capito, ma uno vuol dire, vuole urlare perché? Cioè perché è così? Cioè perché se lei ha diritto a dei soldi deve chiederli con il TAR? In questo Stato un comune debba spendere soldi pubblici per ricorrere contro il suo Stato che gli sta facendo una legge sbagliata ed è una legge rapina? Questo purtroppo è la cosa disastrosa. E cosa ha fatto il governo? Il governo ha fatto ricorso contro il provvedimento del TAR ricorrendo al Consiglio di Stato e quindi noi, anziché restituirci questa cosa qua, chissà quando è che li vedremo. Beh, ma questo è ovvio, no? Ma adesso cosa pensate di fare? Innanzitutto pagare, poi ricorrere e vedere cosa succede? Oppure... No, noi andremo avanti col ricorso fino alla morte, perché se sono soldi nostri ce li devono restituire. In più valuteremo anche... Perché un conto è essere solidari nei confronti degli altri, un conto è essere ingiustamente rapinati. Per cui valuteremo anche se uscire dall'ANCI nazionale, perché a questo punto l'ANCI non deve difendere esclusivamente i grandi comuni che la fanno da padrone, perché tutto l'elettorato è in gran parte lì. Noi vedremo come tutelarci, vorrà dire che andremo avanti a ricorsi. Però vedi l'Italia dei ricorsi, ma è l'unico modo, cioè è l'unico modo per farsi sentire. Giustamente dallo Stato fanno il controricorso, intanto rallentano, no? Intanto non ci restituiscono un bel nulla. È chiaro. Allora devono rivedere i costi standard, perché se io avessi al mio ufficio anagrafe il doppio di dipendenti che dovrei avere, è giusto che venga penalizzato. Ma io le faccio un esempio che è semplicissimo, che capiscono anche tutti gli spettatori. I nostri comuni hanno una spesa di personale che è all'incirca il 19% della spesa corrente. Spesa corrente vuol dire tra entrate e uscite, tolti gli investimenti, l'ordine di grandezza è quello. La media nazionale è oltre il 30%. Dice, allora, noi siamo anche virtuosi, che vadano a penalizzare quelli che non hanno fatto l'abbattimento delle spese. Va bene, sindaco, noi seguiremo questo ricorso. Intanto vedremo cosa accade. La ringraziamo, Walter Marin, sindaco di Sestriere. Ma giustamente rappresenta, non è che è il rappresentante, ma lui è la voce di 572 comuni che si trovano nella situazione così. 572 su 8.000 non sono neanche pochi, sono diversi. No, comunque sono più tranquilla, perché vuol dire che per la mia casa di Cortina da un pezzo non è necessario pagare per la seconda volta. Quindi il castello no, sono più tranquilla. Guarda che è arrivato anche un attapirato Leonardo Manera. Perché sei giù così, che è Leonardo? Cosa è successo? Scusa, ragazzi, ma ieri sera com'è andata? Facciamo i benissimo, seri un attimo. Benissimo, Platone è andata bene. È stato un grande Mauro Meazza ieri. Grande, sì, Mauro che ha Meazza. Fatto? Si è spogliato pure lui? No. No, ci ha dato delucidazioni sul fisco, ma in modo molto, Cruciani, diciamo, Crociani aveva delle domande abbastanza settoriali sulla possibilità di detrarre alcune spese molto particolari che adesso Veronica ti dirò privatamente. Sì. Mauro Meazza ha tenuto botta in modo meraviglioso, rispondeva in punta di legge, la vera star della serata. Mauro Meazza. Ma è la faccenda vegani, come è andata a finire? Bene, no, tutto a posto. Vabbè, ho capito, ti devo dopo però me lo portare, Veronica, due saluti. Ho incontrato, perché ieri c'era Salemme al Teatro Manzoni, allora noi uscendo tutto il pubblico da Salemme, noi entravamo, ho incontrato una coppia di napoletani di Cantù che hanno già preso i biglietti per venire a vedere te a gennaio. Quindi se avverò che te serve due napoletani di Cantù pubblico, adesso, ci sono. Adesso cerco di... Perfetto. Adesso inizio ad approfondire cosa posso farmi portare da Cantù. Ma sai chi c'era anche ieri a vedere Salemme? Lo so. Chi Vincenzo c'era? Montella, che usciva dallo spettacolo di Salemme, non più impegnato sui campi di calcio. Chi è Vincenzo Montella? Veronica. Montella è quello che è stato mandato via per metterci Gattuso. Brava, traffico, grande mossa peraltro, traffico. I funamboli. Milan, fammi una cortesia perché non ho capito bene, settimana scorsa parlavi di una certa remontada del Milan, ma non ho capito in che senso. Veronica, sei fantastica, meravigliosa. Io vorrei chiedere alla esperta Veronica Gentili se Gattuso ieri contro il Verona ha sbagliato modulo e quale sarebbe il modulo migliore da adottare. Grazie. Non lo so, vuoi prendere un po' di tempo? Cerca Google modulo calcio squadra. Io rimodulerei la situazione, sì. Cioè, tu preferiresti un 4-3-3 o un 4-2-1-2, come... O preferisci il modello Ronzo Canà, il 5-5-5, ti ricordi Ronzo Canà? Io preferisco... passare la linea a Leonardo Manera. Io preferisco vivere. Vai, Leonardo. Ma sì, sto calcio. No, c'è una buona notizia per tutti gli elettori del Partito Democratico, ottimo, tutti quelli che si ritengono di sinistra. No? Bene, la settimana scorsa è stata approvata la legge sul... Sul biotestamento. Ci interroga. Ragazzi, ho un sudore alla fronte ogni due secondi. Perché è importante questa legge? Perché è importante? Perché per gli elettori di sinistra, ma del PD nella fattispecie, perché è importante? Perché? Temo che ce lo dirai adesso. Adesso entriamo nell'opinabile, quindi no, non ci farà dire. No, perché sembra questa legge una cosa di sinistra, come idealità, o no? Siete d'accordo? Sì. Sembrerebbe una cosa di sinistra. Che secondo me ha ridato... Sì, progressista, che secondo me ha ridato anche un po' di linfa vitale ai militanti del Partito Democratico che pensano ancora di essere di sinistra, perché oggi credo che sia difficile per qualcuno che si ritiene di sinistra essere militante del Partito Democratico. Prima era più facile quando c'era il PC, avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, pugno chiuso, falce e martello, lotta di classe, giustizia sociale. Adesso la bandiera rossa non c'è più, prima ne era rimasta qualcuna come reliquia, adesso non ce n'è più neanche una. Quindi il militante del Partito Democratico che si ritiene di sinistra deve decidere in cosa credere, per cosa battersi, qualcosa che sia di sinistra, ma non troppo di sinistra, perché non sono più i tempi. Allora, per i cani no, perché c'è già Michela Vittoria Brambilla. Per esempio contro gli hamburger suggerati, a favore della diffusione alle scuole in salata centrifuga, per cambiare i nomi dei panini negli autogrill. Chi se ne frega della giustizia sociale, la battaglia giusta è cambiare i nomi dei panini in autogrill, basta con quei nomi di destra. Per esempio Icaro era di destra perché invece di stare giù con il popolo a lottare per ambizione voleva andare su nel cielo più in alto di tutti, senza neanche prima farsi eleggere, senza la legittimazione popolare, perciò al posto dell'Icaro in autogrill ci mettiamo un bel Togliatti. Anzi, menù completo, panino Togliatti e al posto della milizia un dolcetto Niddeiotti. Ma poi il militante di sinistra del PD è accusato di essere nostalgico e non va bene. Militante di sinistra del Partito Democratico, devi batterti per qualcosa che non sia troppo di sinistra, ma neanche troppo di destra, ma neanche troppo di centro, per qualcosa che piaccia a tutti ma che non serva troppo a nessuno. Per esempio, la Nutella. è perfetta, perché piace a tutti, uomini e donne, di destra e sinistra, ma leggermente più di sinistra perché è scura, perciò è una crema extracomunitaria ma con la cittadinanza italiana da sempre. E poi la Nutella la fanno ad Alba, e l'Alba in sé è una cosa di sinistra perché l'Alba è a est come l'Unione Sovietica, anche se invece la città di Alba è ovest, quindi è perfetto perché prende tutti. Crema extracomunitaria marrone fatta ad Alba, questa è una battaglia veramente di sinistra. Viva la Nutella! Se sei di sinistra, basta con le manifestazioni, basta col sindacato, basta con la giustizia sociale. Se sei veramente di sinistra, dimostralo a tutti mangiando Nutella senza nasconderti. Chi è di sinistra, mangia Nutella. Questa mattina mi sono svegliato, oh bella, ciao Nutella. Avanti popolo, che mondo sarebbe senza Nutella? Bello, se lo dico a Matteo magari mi fa ministro. Chi lo sa, chi lo sa. Però avverò che te serve, se ho Ferrero, prenda nota. Oh, lì veramente prenda nota, ma prenda notissima. Va bene, guarda qua, grande Leonardo Manera. C'è Michele che ci chiama da Perugia, buongiorno. Pensavo da Firenze, buongiorno. No, Michele da Perugia. Forse è arrivato buongiorno. Il momento. Buongiorno Michele. Buongiorno. Una battuta al volo sull'argomentazione del sindaco che parlava prima. Sono d'accordo con lui su quello che diceva. Comunque sia, bisognerebbe rivedere il fatto dell'accorpamento dei comuni, perché è noto che comuni di 30 abitanti non possono andare avanti. Perché vabbè, non è il caso di Sestriere. Però, ma sì. Però, ma in generale, naturalmente i comuni di piccole dimensioni. Sì, è un'altra questione, ci sono tanti comuni, sì. Però in questo caso se i soldi spettano loro bisogna dargli, bisognerebbe. Perfetto, io ho chiamato per diciamo così l'argomento credo principale di questa mattina, che appena l'ho sentito che iniziavate, sì? Ho chiamato immediatamente. Il fatto che le persone guardano sul web per su documentarsi, sì. Prego. No, su internet, dicevo. Sì, su internet per documentarsi e tutto. Beh, io ho due casi che mi riguardano da vicino, che mi portano a avere il pensiero, cioè che il web, come dicevate, io ho sentito purtroppo 2 secondi della vostra trasmissione perché intanto facevo altre cose, purtroppo. Cioè il fatto che comunque sia ti permette di guardare a 360 gradi per, diciamo così, il motivo per il quale uno guarda, cioè la malattia, il problema che una persona ha. Io l'esempio, i due esempi brevissimamente che volevo portare è questo. Mia figlia ha 6 anni, ha un pochino i piedi piatti, cioè ha i piedi piatti, e mi hanno consigliato qua da Perugia, cioè il Meyer, che sta 1 ora e mezza, e per andare là io chiamo un mese fa e mi danno appuntamento a settembre del 2018, sì. Se pagavo una settimana e potevo andare, oppure quello che mi fa venire da pelle d'oca, mio zio 3 anni fa stava all'ospedale, purtroppo non c'era nulla da fare, riusciamo a portarlo a casa. Okay? Michele, sintetizzi un po' perché sennò ti tira via tantissimo tempo, quindi... L'ultimissima cosa, mio cugino per ultima speranza fa venire un medico a casa, questo qua gli chiede 500 euro naturalmente in nero, che mio cugino gli dà, 2 ore dopo mio zio va in coma e altre 2 ore dopo muore. Quindi di fronte alla disonestà di alcuni medici che chiedono parcelle esorbitanti, meglio internet. No, per carità, un piccolo consiglio, perché internet spesso e volentieri ti porta sulla cattiva strada, è inutile negarlo, di cose fantomatiche di ce ne scampi, però potrebbe essere un minimo, diciamo così, di aiuto a quelle persone che 180, un minimo d'aiuto. 200 vabbè, euro no, allora, abbiamo capito Michele, abbiamo capito. Non mi faccia fare la polemica sterile contro gli ascoltatori che parlano troppo a lungo. No, la polemica sterile, imparate la sintesi, no. vi prego. Michele, la ringraziamo molto. Se ho capito bene, però, la alternativa A, siccome alcuni medici costano tanto, meglio internet, no. No, ovunque, non diceva no, questo, diceva no, magari però, se alcune parcelle fossero meno esose, sarebbe la gente si demotiverebbe meno. Ha detto tante cose. Non facciamo cose. Polemica sterile, per favore. Finisce la prima ora dei funamboli, vi prego, sintesi, anche perché siete tanti e rubate spazio agli altri ascoltatori, è una questione di democraticità. Cari amici ascoltatori, tengo dei corsi di sintesi radiofonica il pomeriggio, dalle 14 alle 16 ogni martedì. Andiamo al giornale radio. Donna, sei single ormai da troppo tempo e vuoi presentarti in forma all'appuntamento che rappresenta la tua ultima occasione? Allora copri tutti i tuoi difetti fisici con l'utilizzo di Cerone Ghidoli, il cerone compatto che copre ogni imperfezione e non si smuove nemmeno dopo un bagno turco. Cerone Ghidoli è il cerone che trasforma il viso e crea la famiglia sulla base dell'inganno. Prova anche tu.

Buon Natale dalla famiglia Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Monge, il menù di Natale per cani e gatti. I funamboli. Dice no taxation without representation, ma io mi chiedo, la rappresentazione, come si fa a essere rappresentati quando si paga l'IMU in una seconda casa, che dove io non posso andare a votare? Praticamente io pago solo tasse sulla mia seconda casa, ma non ho la possibilità di essere rappresentato in consiglio comunale, non ho assolutamente nessun diritto, e questo sarebbe secondo me anticostituzionale. Brunetta versione santeramese, bellissima questa. È così, è così. Protestate pure, ma è così. Ma allora siete proprio appassionati di questa ripetita. È diventato un mantra, praticamente lo facciamo anche la sera davanti allo specchio. Ma è bello, così, è come quando... È così, è così! Ma è come quando Bertolino faceva il pezzo in cui si conclude qualsiasi discussione con "D'altra parte è così". Sì, che è il modo per troncare ogni discussione. Sì, d'altra parte è così. Cosa vuoi replicare? D'altra parte è così. È così. È così. È così. Allora c'è Cesare dalla provincia di Firenze, ci ha chiamato all'800240024. Inizia lui la seconda ora dei funamboli. Cesare, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Complimenti per la vostra trasmissione. Io grazie, caro Cesare. Un contributo personale, perché faccio il medico e sono anche un chirurgo. Ah. E quindi mi trovo tutti i giorni a confrontarmi con qualche paziente che giustamente va a informarsi su internet e anche altrove. E quello che vi volevo raccontare era un'esperienza personale di un paziente che viene per farsi operare di ernia, e io gli propongo due tecniche, una tradizionale con il taglio e una in laparoscopia. Sì. E la tecnica in laparoscopia, gli spiego, e prevede comunque un'anestesia generale, mentre l'altra si può fare senza l'anestesia generale, senza dormire. E questo mi guarda, dice: no, io voglio la laparoscopia ma non voglio dormire. E io dico: guardi, è impossibile, cioè non si può fare. E gli rispiego, finché tira fuori una rivista e mi fa vedere, dice: guardi, e qui c'è scritto che si può fare con tecnica laparoscopica in anestesia locale. E allora io ho guardato questa rivista, ho letto, in questa rivista c'erano scritte tutte, descritte tutte le tecniche chirurgiche, francamente anche un servizio fatto bene. Il problema è che lui poi si era soffermato sul riassunto finale, sì, dove evidentemente la giornalista aveva fatto sbagliato un po' di confusione. Quindi lei dice: un conto è informarsi, un conto è dall'informazione pretendere di dire sapere al più medico, del medico. No, guardi, è così, adesso lei mi deve fare, scusi se riutilizzo Brunetta. No, dai, no, per favore. Cioè, bisogna fare come chiedo io, questo è il punto che... Però non era andato sul web, si era letto questo articolo. Ma insomma, per carità, l'informazione, come ha detto prima il professor Remuzzi, però un conto è essere informati, un altro conto poi quando uno va da un chirurgo, insomma, no, pretendere di dire: no, ne so più io, guardi, che lei non di lo sapere sa tutto. Ma lei da medico come la vede, Cesare? La pensa come il professore con cui parlavamo prima? Ma cioè, tutto sommato, senta, si risparmia fondamentalmente sì, perché le persone, se vengono un po' informate, okay, l'importante è che si informino là dove c'è una giusta informazione, una corretta informazione. Ma no, diciamo che come al solito è proprio una questione di equilibrio. Bene informarsi, probabilmente aver trovato di fronte un paziente informato l'avrà fatto anche piacere. Poi dopo, quando diventa un conflitto l'informazione, appunto, no, è come dire: ho studiato, so medicina anch'io, ho letto su una rivista e quindi bisogna fare in questo modo, questo forse diventa, come dire, che è un po' l'atteggiamento che c'è in tutto, no? Come nelle altre cose di informazione generale, col fatto della disintermediazione, ognuno pensa di sapere tutto di tutti gli argomenti. Va bene, però quando uno vuol pensare di sapere anche di laparoscopia, dice il medico: io voglio saperne di laparoscopia, vada da un'altra parte, voglio saperne di laparoscopia. Studi medicina, mantieni la calma, Brunetta, lo vedo già, studi medicina, studi medicina ti stava partendo. Allora, dai, vediamoci anche Maurizio dalla provincia di Parma. Buongiorno Maurizio, che ci vuole dire? Buongiorno, buongiorno. Io volevo semplicemente dire che, complimenti per la trasmissione prima di tutto, e io sono tanti anni fa ho cominciato a farmi delle domande. E non ci sono noi risposte. Resteremo noi col resteremo. Dubbio perpetuo di che quali domande fossero. Erano, certo. Non ci sono le risposte, esatto. Va bene, allora dai, vogliamo introdurre un argomento ora, che è questo argomento, visto che andiamo anche in campagna elettorale, non parliamo di politica, ma parliamo del modo in cui ci si approccia alla politica, visto che ci attende una campagna elettorale già scoppiettante, l'abbiamo visto dall'inizio, siamo in campagna elettorale perenne, non mancheranno anche accuse pesanti, no? Veronica, tu ne hai sentite alcune di recente? Sì. No, vabbè. Beh, perché di recente? Diciamo che in particolar modo da quando è nato il Movimento 5 Stelle, tra Movimento 5 Stelle e PD negli ultimi anni, il web su questo ha aiutato, esattamente come nell'automedicazione, ha fatto sì che si sviluppasse proprio la cultura dell'insulto, possiamo dire così. Che dici tu, Leonardo? Vuoi tirarti via qualche sassolino? No. Mi sono sempre piaciuto. L'unica cosa bella della politica è la campagna elettorale, secondo me. In cui me. Se ne danno di santa ragione. Ti piace quando migliore. Volano gli stracci? Sì, è una cosa divertente, perché poi per il resto si potrebbe anche fare a meno di un governo in carica, no? Come succede in Belgio, eccetera. Certo. Va bene. Cioè, chiaro. Proprio tu vorresti a meno? Ci autogoverniamo da soli. Io farei la campagna elettorale, ma senza elezioni. Tre mesi campagna elettorale. Temo poi però basta. Che perderebbe vigore, Leo, perché se non ci fosse dopo l'ambito agognato frutto. Non si insulterebbero. Comunque, vogliamo invitare una persona, una funambola, che ha ideato un manifesto della comunicazione non ostile in campagna elettorale. Non lo seguirà nessuno. No, in realtà no. L'obiettivo è proprio quello di dire le parole sono importanti, quindi va bene magari le diatribe, però utilizziamo le parole in maniera giusta. Parole ostili, non solo ostili come aggettivo, ma parole ostili. È bella anche questa, certo, doppia lettura. Rosy Russo, buongiorno, grazie buongiorno di essere qui voi. Con noi. Allora, tra l'altro diversi parlamentari hanno già aderito dicendo cambio stile. Cambio stile in che senso? Perché c'erano troppi insulti prima e bisognerebbe abbassare i toni? Magari, appunto, magari. L'avete detto anche voi. Comunque no, diciamo che questo progetto Cambio Stile nasce appunto dal manifesto della comunicazione non ostile, che è un progetto che abbiamo lanciato già a febbraio, che vede 10 principi, un impegno che le persone possono prendere in generale sul tipo di comunicazione che possiamo fare con gli altri. Si parte da virtuale e reale, per dire anche che il silenzio comunica, insomma. È un lavoro che è stato fatto insieme a tanti comunicatori, politici, persone dello spettacolo. Abbiamo scritto, ecco, questi primi 10 principi li abbiamo scritti a più di 100 mani, dico sempre io. Un bellissimo lavoro che poi è stato molto condiviso e ha cominciato a viaggiare da febbraio in poi. Ma concretamente cosa vuol dire? Cioè, ci sono parole proibite, toni che andrebbero abbassati, cioè, per carità, niente di impositivo, ma cosa consigliate voi? No, allora guardate, l'operazione che abbiamo fatto noi, cioè Parole Ostili, è un progetto di sensibilizzazione ed educazione. Sì. Ecco, questo sia chiaro, non vogliamo bacchettare nessuno, non vogliamo giudicare nessuno, ma vogliamo invitare le persone a crescere un po' nella responsabilità dell'utilizzo delle parole. Allora, abbiamo fatto un passo in più rispetto a febbraio, in questi giorni abbiamo declinato il manifesto della comunicazione non ostile in politica. Crediamo in effetti che, come l'avete detto benissimo voi, stanno arrivando le elezioni, i toni si stanno già alzando. Allora, abbiamo questo sogno, questa ambizione di provare a promuovere un confronto politico basato un po' più sulla forza delle proposte e non tanto sulla violenza degli insulti o l'inganno magari delle notizie false, si parla di fake news, eccetera, eccetera. No? Quindi... Ma questo progetto non nasce soltanto per la politica e per la campagna elettorale, mi sembra di aver capito. Cioè, l'idea è quello di svilupparlo. A febbraio è nato in realtà in maniera molto generalista. Infatti infatti noi siamo entrati anche con dei progetti educativi nelle scuole, abbiamo già raggiunto più di 30.000 studenti, abbiamo una fortissima community di insegnanti, a febbraio faremo un evento dedicato agli insegnanti proprio per dare dei modi, ecco, per trattare queste tematiche anche negli orari scolastici, sì, che sia la storia, geografia, filosofia, greco o altre materie, insomma, sì, la stessa ginnastica. Adesso abbiamo detto ok, però facciamo un passo in più, proviamo a capire in che maniera riuscire a incidere un po', o provare a incidere sulla prossima campagna elettorale, diciamo, senza che entrare, certo, nel merito dei contenuti. Chiaro, no, questa forma è un'altra cosa. Il sito internet, lo ricordiamo, è www.paroleostili.com. E allora facciamo così, ripartiamo dopo il traffico con lei, Rosy Russo, perché è interessante. Tra l'altro molti hanno usato questo hashtag, per chi utilizza Twitter, cambio stile, per chi vuole. Leonardo, tu io mi chiedo semplicemente, no, è una proposta, un'iniziativa lodevole, mi chiedo se non sia un po' una lotta contro i mulini a vento, ecco, in un tempo dove tutto è molto gridato. Ripartiamo proprio da qui. È una battaglia contro i mulini a vento cercare di risensibilizzare sull'importanza della parola utilizzata in maniera giusta e non ostile, appunto. Tra poco. I funamboli. Allora, siamo qui appunto con Rosy Russo, ci stava raccontando l'importanza delle parole. Ecco, è una battaglia contro i mulini a vento che deve Leonardo Manera, Russo, soprattutto in, ecco, politica? Chi lo sa? Diciamo che è una battaglia ardua, non contro, sì, i mulini a vento, noi ci crediamo in realtà. Allora, cambio stile l'abbiamo proposto una settimana fa, abbiamo chiesto ai politici, partendo da senatori... chi ha aderito? Chi ha aderito? Ci dica... Ecco, abbiamo già 5 ministri che hanno aderito. 5 ministri, beh, però... Abbiamo 5 ministri, abbiamo i capigruppo al Senato, abbiamo anche il capogruppo alla Camera, Rosato, del Partito Democratico, cominciamo ad avere un buon nutrito numero di sindaci, mm-hmm, e il sindaco di Bergamo, Gori, si è fatto promotore dell'iniziativa, presidente dell'ANCI, sì, ha sottoscritto, sì, il manifesto. Beh, insomma, alcuni, guardi, no, vogliamo, le vogliamo presentare un parlamentare, uno, l'abbiamo chiamato apposta. Il nostro moderato, uno che non dovrebbe un modo moderato, di fare moderato, immagino. Amico di Veronica Gentili, peraltro, si sa. Maurizio Bianconi, Maurizio, ciao, come va? Ciao, bene, va molto bene. C'è questa iniziativa Parole Ostili, tu per esempio che dici sempre Renzi, come? No, gli ho detto la verità. Io dissi di Renzi che era un cazzaro, ecco, era la prima cosa, c'è un bugiardo cronico. Poi dissi che dopo un pochino si sarebbero accorto che era un truffatore, e poi dopo un altro po' si sarebbero accorto che era pericoloso. Vabbè, adesso. Però c'è questa campagna, ecco, già dovresti moderare un po' i termini. Hai aderito tu a questa campagna? Ma non ci penso neanche. Eccolo là. Perché il politicamente corretto giova a chi governa. Il politicamente corretto giova alla grande stampa. La gente ha bisogno di essere scossa un pochino per fare un pochino più chiasso là dove siamo meno e siamo all'opposizione. E quindi che Rosato, che fa tutto il bello e il bellino alla Camera, abbia aderito non mi meraviglia, perché gli conviene a lui. Cioè, il ruolo dell'opposizione è quello di picchiare duro anche con qualche picchiare parola. Duro perché c'è egemonia informativa. Non ci fosse egemonia informativa per cui si potesse parlare severamente a un popolo che sinceramente interessati alla politica, allora il linguaggio corretto sarebbe la miglior cosa. Però la scossa arriva... Ma questo non è... No, mi chiedevo se la scossa arriva dalla parola o magari dal contenuto, cioè se si riesce a esprimere una scossa nel contenuto senza utilizzare... Io quando dico che Renzi è un cazzaro è contenuto, perché è un bugiardo delle sette cotte. Se mi detto è un bugiardone, cazzo, no, è un cazzaro. Con una parola, capisci? Lei deve comprendere che noi parliamo non ai politicamente corretti, non a quelli che sciucciano al regime, non quelli che sciucciano al potere, noi direttori di banca che rubano i soldi, noi gli finanzieri, no, tutta questa gente. Ma non parliamo neanche ai cretini che credono che ci siano gli UFO o, come si dice, i scippe sotto pelle. Sì. Parliamo sostanzialmente a un'Italia media che sarebbe lieta di parlare bene, ma ne ha pieni i coglioni. quella... eccolo lì. Ma allora, Bianconi, io vorrei sapere, senza insulti, la campagna elettorale perderebbe tutto il suo pepe, il suo appeal, e diventerebbe una cosa mortaccina oppure no? Potrebbe avere comunque un mordente. Se la gente si interessasse di politica, la campagna elettorale avrebbe un senso. Quando nel 1971 io andai a fare le elezioni siciliane, e Almirante mi mandò laggiù, sì. E io facevo i comizi nei vari paesi. Faccia conto Piazza Armerina, che posso dire io, sì. Caltagirone. Allora c'era la piazza principale del paese, che c'erano tutte le seggiole in fila, in piazza. Il palcone più importante del paese che la famiglia aveva messo a disposizione, e che si saliva di un'ora all'altra ora l'oratore. La piazza era piena, il pubblico sempre lo stesso, cambiavano soltanto le prime due file. Allora, quando potevi parlare a un pubblico così, che gli piaceva il comizio, potevi anche risparmiare termini forti o fortissimi, sì. Perché il discorso lo seguivano, gli piaceva. Sì. Oggi che c'è le Iene, oggi che c'è Striscia la Notizia, oggi che c'è l'Istanbul, l'Istanbul, c'è tutta questa roba qui, una parolaccia spesso è riassunta. Certo. Rosi Russo, cioè, questo è interessante però, Bianconi dice, e sono altri tempi, per penetrare proprio nell'interesse scarso degli italiani nella politica, purtroppo ogni tanto la parolaccia serve e il tono aggressivo. L'attenzione. Addirittura ha detto così. Che è riassuntivo, quindi riassume un concetto che avrebbe bisogno di più parole. Esatto. Cioè, Vorrei sottolineare una cosa, cioè il nostro non è assolutamente un manifesto del buonismo, che sia chiaro, cioè non era questo l'intento e non lo vorrà essere neanche in futuro. Ti faccio un esempio molto concreto, il principio numero 6 dice le parole hanno conseguenze, del manifesto della comunicazione, scusate, sono ostile, e dice appunto che so che ogni mia parola può avere conseguenze piccole o grandi. Tradotto in politica significa questo: credo che il dibattito pubblico, anche se aspro, debba essere un momento di crescita per tutti. Come persona pubblica sono consapevole che tutto ciò che dico lascia un segno in molti. Prima di fare un'affermazione penso alle conseguenze. Allora, noi siamo consapevoli che la campagna elettorale è un momento di dibattito importante, anche aspro. Quindi non è che dobbiamo essere tutti buoni, sorridenti, sì. Non dire le parolacce, non è questo. Però dice, non bisogna trascendere. Esatto. Ma certo, capito, però Bianconi invece ci fa capire che dal punto di vista suo, per chi sta all'opposizione, per farsi sentire bisogna ogni tanto spararla grossa. Le buone intenzioni. Che però è deprimente messa così, cioè ogni tanto bisogna spararla grossa. E non era deprimente, non smettevo di te. È vero che Bianconi non si candida, io sono depressissimo per questa cosa. Perché è deprimente, sia il... come posso dire, il quadro generale, sia i contenuti dei dibattiti, sia anche questo svillanaggiamento del linguaggio, è tutto deprimente, non c'è un filo politico apprezzabile per chi ami la politica, questo su questa ragione. Però lei, signora, è un po' Alice nel paese delle meraviglie. Lei a cotesto manifesto in cima bisognerebbe che scrivesse: tutti hanno lo stesso spazio nell'informazione. Basta con i giornalisti, i giornali, le televisioni, i media, i conduttori, ruffiani e servi di comanda. Punto. Oh. E dopodiché si potrebbe anche parlare. Vedi Veronica, lo declina solo sulla politica, è chiaro, però parole ostili non è sulla politica. Io mi chiedo, caro Bianconi, nel momento in cui questo è legittimato così, in maniera sdoganata in politica, non diventa poi una specie di insulto a chi la spara più grossa nella società in generale, per cui per esempio la rete è diventata il Bronx? Perché? E pensate che questo dipende dalla politica. Quello che succede in politica è la conseguenza del paese. Non è che la politica è insegnata al paese a farla a mano. Ma lei guardi anche una fiction nel tempo dei bambini. Cazzi, culi come da ventera. Bianconi! È così, è vero. Sentite cosa dico. Sentite Gomorra. C'è una filata di improperi che fa paura. Però vedete la litizia. Bianconi, il discorso non è solo il turpiloquio in quanto tale rispetto al buon linguaggio pulito e puro, esatto. È proprio insultare gli altri con livore, con astio, dire delle cose becere, quella è un'altra cosa. Ma guardi che il livore e l'astio e offendere gli altri non dipende dagli altri. Dipende da chi ha fatto la prima mossa. Se mi pigli per il culo reagisco. Eccolo là. E poi Bianconi dice... Sono corretto. Se mi pigli per il culo... In politica però, no, lei lo sa molto meglio di me, non va sempre così. C'è anche chi parte attaccando In questo momento va così. Chi è in debolezza offende. Bianconi dice in sostanza che la politica è lo specchio della società, insomma, in qualche modo. Invece la signora Russo dice che insomma la politica dovrebbe essere un po' meglio di quella della società. Rosy Russo, definita lì, il paese delle meraviglie, invece crede nell'importanza di... Senta, se il presidente, il presidente del Consiglio dei Ministri ha appoggiato lui stesso questa nostra iniziativa, se ci sono centinaia di migliaia di scuole in Italia che hanno preso il manifesto della comunicazione non ostile nelle aule, stanno girando veramente tutta l'Europa con il manifesto, perché è stato tradotto già in 10 lingue, che so, la città di Barcellona ha già iniziato un lavoro sul nostro manifesto e iniziano delle collaborazioni. Allora, io non credo che la nostra iniziativa sia un'iniziativa semplice di buonismo che sta raccogliendo così il sorriso di tutti. Ma infatti, ma tra l'altro, Rosy Russo, ma voi fate bene, perché svincoliamo anche un po' dalla politica, cioè non è legata solo, fuori dalla questione della campagna elettorale, è uno spaccato. Ma il fatto che voi andiate nelle scuole, parliate ai ragazzi, cioè è un tentativo di sensibilizzazione che secondo me ci sta. Ecco, Bianconi contesta la questione sulla politica in senso stretto per i tempi in cui viviamo. Io credo che i politici abbiano una grandissima responsabilità. Allora, il nostro manifesto, se voi guardate, lo dicevo e lo ribadisco, noi non vogliamo spacchettare nessuno, nasce come un impegno che le persone possono o possono fare a meno di prendersi. Quindi chi lo firma si prende l'impegno, chi non lo firma sceglie di non farlo, quindi massima libertà. Però ecco, noi stiamo lavorando proprio sull'impegno delle persone. Il manifesto è già stato firmato da migliaia di persone in Italia, il manifesto in generale. Quello della politica cominciano ad esserci dei numeri importanti a livello di politici, ma soprattutto la cosa bella è che stanno aderendo sindaci, assessori regionali, provinciali, comunali. Chiaro. Ecco, che alla fine, poco alla volta anche Bianconi verrà convinto. Senza dubbio. Più che altro hanno accettato tutti gli schieramenti, quindi teoricamente da adesso ci sarà una campagna elettorale veramente quasi così, con il suono di violini in sottofondo. Sì, questo non succederà. No. Va bene, Rosy Russo. Sì. Ecco, chiudo dicendo magari ancora una cosa, stiamo provando a lavorare comunque per provare a istituire nel periodo di campagna elettorale un osservatorio per capire un attimino come realmente si muoveranno i politici proprio alla luce di questo nostro manifesto. Va bene, vediamo. Potranno partire delle sanzioni pecuniarie, secondo me, verso chi ha aderito, invece si dà l'improperio. Bianconi non firmerà, ma Bianconi è la libertà. È una iniziativa del politicamente corretto. Stava dicendo, voleva dire un'altra cosa. Ma tutti proprio dove sapete voi. Il politicamente corretto mi fa... siamo in un paese di buoni. Se siamo buoni ce lo mettono nel sottocoda. Ecco, non ha detto neanche una parolaccia nell'ultima frase. Bianconi sta peggiorando. È incredibile. Ha espresso lo stesso concetto con un linguaggio molto più edulcorato. Sta entrando un po' lentamente anche parole e stili in Maurizio Bianconi. Inconsciamente. Dobbiamo andare a sentire un attimo le informazioni sulla borsa. Ovviamente vi ringraziamo, Rosy Russo e Maurizio Bianconi. Poi ripartiamo, ascoltatori. Recuperiamo anche una storia che abbiamo affrontato nei giorni scorsi. E state con noi. Con Chuck Norris non conviene lo scontro, ma lo sconto sì. Con la fine dell'anno arriva lo sconto finale di Fiat Professional. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E con il leasing FCA Bank, pianale sagomato e antifurto meccanico del vano di carico by Mopar inclusi nel prezzo. TAN 3,95, tasso leasing 4,03, info su fiatprofessional.it. Affrettati, lo sconto finale scade il 31 dicembre. Per una volta Chuck concede un lieto fine. Dai contrasti nascono nuove armonie. Rossi d'Asiago ha creato culto. La grappa di Amarone invecchiata in barrique. Carattere e morbidezza duettano in perfetto equilibrio. Grappa culto. L'armonia è nei contrasti. Il culto della grappa.it. Non preoccuparti. Su Amazon.it trovi ancora un sacco di regali per il tuo Natale. Non è tardi per accaparrarti offerte imperdibili in tante categorie. E come sempre, consegna gratuita su milioni di prodotti idonei. Offerte di Natale su Amazon.it dal 7 al 21 dicembre. Disponibilità e condizioni delle offerte e delle consegne su Amazon.it. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle.

comunale. Di solidarietà. Va bene, sì. Quindi Silvano, lei dice il problema è proprio anche, anche a, questo. Insomma, a prescindere dalla, da oltre questa comuni situazione. Turistici. Sì. Vabbè, questa rapinetta dello Stato, va bene, dai. Andiamo, rimaniamo in provincia di Treviso. Italia centralizzata, da tutti Andrea, i soldi a Roma. Tutti a Roma, tutti a, da Veronica Gentile. Ah, vero, che ti serve? Soldi. Andrea, buongiorno. Stavo buongiorno, secco. Buongiorno. Prima di tutto vi ringrazio per avermi richiamato. A lei, grazie. Volevo solo accennare un attimo al, a questo discorso di, di aumentare un po' il bon ton nella politica. Sì. Mi ha lasciato un po' perplesso, devo essere sincero, l'intervento da parte dell'onorevole, se non sbaglio. Bianconi. Sì, Bianconi, perché in qualche modo sembra che lui metta in evidenza come una impossibilità che il livello generale migliori. È questo che mi lascia un po' deluso anche, perché io faccio parte di quei tanti pochi italiani, non lo so se sono tanti, se sono pochi, che sono veramente non delusi, sono veramente scocciati di questa di questo livello. Cioè, lui dice, dice con questo livello di informazione, dal suo punto di vista, un po' per farti sentire, all'opposizione devi ogni tanto dire... Diciamo che Bianconi è un po' estremo come toni e come modi da sempre. Il discorso è un po' quello che lui dice, un po' una verità, il fatto che molti utilizzano questo sistema per essere ripresi dai giornali, dai media, quando in realtà non hanno attenzione in altro modo. E voi ricordate che Pannella fece il contrario, cioè per farsi notare si imbavagliò in una tribuna stampa, quindi col silenzio, no? Ci sono tanti modi. Un suggerimento implicito tu a, a tanti, no? C'è Pierpaolo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Anch'io chiamo per quanto riguarda il discorso, diciamo, del bon ton o comunque della stile, come ha parlato la vostra interlocutrice. Io non sono assolutamente d'accordo, nel senso che a mio avviso dal come devi dire le cose a cosa devi dire il passo è brevissimo. Sì, è chiarissimo. Quindi che poi dopo aver modificato la forma si modifichino anche i contenuti. Però si nonostante le persone non siano d'accordo, vedi che usano un po' del bon ton nel dircelo. E quindi questa basta cosa ricordarlo. Abbiamo già veicolato il messaggio subliminale. Ci no? Si sente più responsabilizzati, un minimo. No? Pierpaolo, grazie per essere intervenuto. Allora, vogliamo recuperare un ospite che avevamo avuto qualche tempo fa. La storia, forse la ricordate, di un imprenditore, Sergio Bramini, che è fallito per crediti da parte dello Stato. Sergio Bramini, buongiorno, ben ritrovato. 4 milioni buongiorno, di crediti. Buongiorno. Sì, ha lavorato per anni nella pubblica amministrazione, settore rifiuti, mai pagato, e così ha dovuto chiudere, fare anche mutui, ipoteche sulla casa, sulla fallito. Propria azienda. E la sua villa era finita all'asta. Esatto, la villa era finita all'asta, l'asta giudiziaria era il 15 dicembre, ci avevamo appuntati questa data. Com'è andata, che Bramini? Che è successo, Sergio? È andata che a seguito di due denunce che sono state fatte alla Procura della Repubblica di Milano e di Monza, avrebbero dovuto fermare l'asta, perché sono due denunce a carattere penale, una alla banca per usura grave, e l'altra al curatore fallimentare per l'esercizio di atti falsi e favoreggiamento, abuso dati d'ufficio. Quindi il giudice avrebbe dovuto fermare l'asta, cosa che non ha fatto. Allora, il giorno 14 mattina, l'asta era il 15, abbiamo ricusato il giudice, come era logico, perché non era più il nostro giudice naturale dal modo comportamentale e dal fatto che ha commesso un atto illegale. Ecco, il pomeriggio la presidente del tribunale ha inviato in telematico un atto in cui sospendeva l'asta. Quindi il generale ha sospeso l'asta. La mattina, con il mio avvocato, scaramanticamente siamo andati all'asta. E proprio mentre stavamo uscendo, perché eravamo convinti che non partiva, abbiamo incontrato il custode, il delegato alla vendita, il quale mi ha detto soavemente che alle 10.30 il giudice aveva emesso un atto di inammissibilità, cosa che non poteva fare lui, perché è come se ti do dell'assassino e invece di andare davanti al giudice lo dico io, non è vero. E ha proceduto comunque? E ha proceduto comunque. E l'asta proceduto è andata? Comunque, l'asta è andata deserta, ma questo è il film che si ripete, perché questa è un'altra casistica grave. alla quale io ho assistito per un caso, perché sono entrato in questo Bailam, in questo massacro. Andrà deserta per 2 o 3 aste, naturalmente. Perché il prezzo si ribassa poi? Finché il prezzo scenderà a 208.000 euro, che è il prezzo di 2 locali più servizi a Monza. Ricordiamo invece che quella è una casa costruita con passione, con fatica, con il duro lavoro, e che vale molto di più. È una villa più che una casa, credo, certo, no? È una villa che vale molto di più, quindi questo sarebbe un decimo del suo valore reale. Ma dietro questo c'è un perito che l'ha apprezzata la metà, nonostante abbiamo fatto opposizione, il giudice che ha approvato nonostante l'opposizione. È tutta una serie di azioni per cui non solo la mia villa, io parlo anche a nome di terzi, qui partono gli appartamenti da 1 milione e si vendono a 200.000 euro alle aste giudiziarie e con il ribasso del 25%. Motivazione, copertura delle spese condominiali, dico, ma la mia è una villa, non ho spese condominiali. E mancanza di garanzia. Ma scusi, quale garanzia? Lei mi sta esecutando la villa, mi sta vendendo la villa. Certo. Nessuna risposta. Quindi c'è un costrutto, una macchina oliata perfettamente, no? E per quello io vorrei che anche la procura indagasse su questi fatti. Perché questo paese, la legalità deve essere la legalità. Guarda, Barmini, noi torneremo a capire, perché tra l'altro la vicenda, l'altra volta ne avevamo parlato anche col direttore di Oggi, so che poi è stato fatto un servizio sulla sua storia, proprio sulla rivista Oggi, e insomma l'asta continua. Io speravo ci fosse una no, io credevo che ci fosse stato realmente positiva, un cambiamento, invece no, c'è soltanto un temporeggiamento della questione. Vedremo, perché noi non abbandoniamo le storie, nel senso le aggiorneremo e cercheremo. Viene un senso di impotenza a volte, no? Sì, in questo caso più che impotenza di cercare proprio di combattere più contro mulini a vento. Comunque grazie Sergio Bramini. Sergio, forza e coraggio, torniamo. Buon Natale intanto. Intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico, perché poi a proposito di Natale, cara Veronica, la scorsa settimana abbiamo avuto 2 puntate con 2 preti, un prete e un prete. Anche oggi avremo un prete ospite. Di nuovo? Chi è questo prete? Tu lo conosci? No, è una novità. Don Milani? No, si chiama Don Dino, è venuto a trovarci tra poco. I funamboli. Eccoci qua, allora, le 10:46 minuti, siamo in diretta su Radio 24. È venuto a trovarci un sacerdote, ci avviciniamo al Natale. Don Dino, buongiorno. Un saluto affettuoso, pace e bene agli ascoltatori di Radio 24. Oh. Salve. Questa radio che è conosciuta in tutta Italia per i suoi peccati, per i suoi peccatori, è una radio dei peccatori seriali, tra i quali spiccano Alessandro Milan, Veronica Gentili, tutti i collaboratori di questa trasmissione, tra i quali salvo solo il signor Manera. Per la direttura morale e il comportamento indegerrimo che non si può parimenti attribuire ad Alessandro Milan e Veronica Gentile, persone di dubbia moralità e peccatori abituali. Abituali, no? Sono un po' peccatori. Naturalmente il sottoscritto si rivolge soprattutto agli ascoltatori di Radio 24 che in questo momento vi trovate nelle case, probabilmente a commettere atti impuri, vi trovate nei camion a progettare soste nelle piazzole per commettere atti impuri, oppure vi trovate in automobile o nei taxi a commettere infrazioni, ma soprattutto atti impuri. Ebbene, cari peccatori seriali specializzati in atti impuri, il Natale si avvicina e sappiate che in caso di peccato, ve lo dice Don Dino, la punizione, la vendetta del cielo sarà ancora più severa, senza magnanimità. Durante queste feste potreste essere indotti a commettere peccati di gola. In questo caso la punizione del cielo sarà dirompente. Mentre mangiate il bis di lasagne, la lingua vi cade nel piatto, i denti si cariano fino alla radice, le papille gustative si bruciano per sempre, il vostro vicino di casa ascolterà ininterrottamente canzoni di Tiziano Ferro e ogni volta che vi chinate per degustare un boccone avvertirete una fitta lancinante alla zona lombosacrale per tutta la vita. Per tutta la vita fitte e canzoni di Tiziano Ferro. Questo vi capiterà se commetterete atti impuri e di gola. Se invece non santificherete le feste di Natale, evitando la Santa Messa, evitando il segno di pace natalizio, d'ora in avanti ogni volta che stringerete la mano a qualcuno, stringerete solo mani sudaticce. Perderete l'amicizia del genere umano, sarete costretti alla solitudine nera. D'ora in avanti l'unica compagnia sarà la solitudine nera, completa ed assoluta. Vi macererete nel rimpianto, nel rimorso, accompagnato solo dal dolore, dalle fitte per i denti cariati con canzoni di Tiziano Ferro. Accidenti, che scenario. Se invece passiamo al peccato successivo, periodo natalizio commetterete atti impuri, sarà l'ultima volta che potrete farlo, perché mentre lo fate, se siete uomini, d'ora in avanti troverete solo donne con mal di testa, nevralgie, cefalee, emicranie lancinanti che impediscono ogni rapporto sessuale. Invece se siete femmine vorrete commettere atti impuri subito dopo i preliminari e subito prima dell'atto completo, i vostri uomini diventeranno omosessuali ascoltando ininterrottamente le canzoni di Tiziano Ferro, lasciandovi lì bramanti di desiderio mentre la lingua vi cade e i denti si cariano per le lasagne, mamma mia ragazzi, alla radice. Con questo faccio tutti i migliori auguri di buon Natale buonissimo alla cara proprio peccatrice Veronica Gentili, ecco, al peccatore Alessandro Milan e naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Bene. Don Dino, noi la ringraziamo moltissimo per questa benedizione. Grazie. Grazie, ci ha messo veramente. Vi cadono i denti. Ho capito. Bene. Vi cade la lingua, no, i capelli, la barba ispida è impossibile da rasare, anche che cresce in ogni zona del corpo, anche sotto i piedi. Peli sotto i piedi se beccate, ispidi. Peli sotto i piedi? Mannaggia ragazzi, che bel Natale. Poi dice che Manera è retto e il più Emma è l'unico senza capelli, no, Manera, quindi facciamoci Manera delle domande. È l'unico integerrimo privo da ogni peccato. Ma lei da dove viene? Perché Don gli Dino? Sono caduti già. Io vengo da un piccolo paese in provincia. Quale in provincia, provincia è no, meglio vabbè, non adesso, dire? È peccato la curiosità estrema. Pensavo è peccato la provincia. Sì. È peccato questa curiosità che ha Alessandro Milan, che se continua a beccare di curiosità ti vengono le unghie delle dita lunghe, impossibili da tagliare, ispide. Oddio. Ispide anche quelle. Va bene, Don Dino, la ringraziamo. Viene a trovarci l'anno prossimo per il prossimo Natale? Vengo qui tutti i giorni a controllare sui vostri peccati. Magari per Pasqua prima può venire, no? Vengo per all'ultimo Pasqua dell'anno, al primo dell'anno, per evitare che questa banda di peccatori che si ritrova qui dentro abbia un seguito. Ah, tra l'altro, a proposito di Natale, Don Dino, sappiate, cari ascoltatori, che potevamo lasciarvi anche noi di Funamboli il Natale così vuoto. No. Faremo uno speciale che andrà in onda alle 22 la sera di Natale. E anche il Capodanno è il 31. Io ho cercato di convincerli a farlo, proprio nel senso ad essere noi qui e a lavorare nei giorni festivi come si conviene. Succederà. Al mio punto di vista, beh, ci siamo ingegnati così. Succederà. C'è Angelo dalla provincia di Campobasso. Buongiorno. Eccoci Angelo. Allora, io vorrei intervenire sul fatto del pagamento delle tasse e quindi sono la vedo in una maniera contraria rispetto a chi è intervenuto precedentemente dicendo che le tasse vanno a finire tutte a Roma e non rimangono nei propri paesi. Io adesso abito in un paesino in provincia di Campobasso, Montemito, 300 abitanti. Questi 300 abitanti, praticamente che cosa succede? Faccio l'esempio pratico, Tasi e l'acqua, il contatore dell'acqua. Io ho tre casette, ereditate per sfortuna, di 30 metri quadrati una, 60 metri quadrati l'altra. Pago la TASI, sì, la TASI, dico bene, e in più i contatori dell'acqua. Consumo zero, 80 euro di ogni contatore, e vanno nelle casse comunali. La TASI va nelle tasse comunali. 300 abitanti, due dipendenti, sì, due dipendenti, tra cui però ci sono le seconde case di quelli che abitano fuori, che hanno la residenza, e che quindi c'è un introito, e vengono nelle tasse comunali. Non abbiamo mezzi pubblici, non abbiamo niente, e quindi il cittadino paga, e comunque con gli servizi. Paga perché deve pagare? Il punto è che noi non riusciamo a capire dove vanno a finire i proventi. Faccio l'esempio della TASI, che è una tassa specifica. La TASI non si sa dove vanno, cioè, di scopo. No, è chiaro, perché siamo in chiusura, Angelo. Vanno a Roma e poi si perdono. Non, come dire, Don Dino punirebbe questa curiosità estrema di sapere dove finiscono i soldi degli italiani. Mi crescono peli ispidi impossibili da tagliare. Mannaggia, credo che sia più per Veronica una condanna che per me. Stavo un attimo verificando la situazione come andava. Quindi... Dai, salutiamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti in redazione, e in regia Peter Bescapè a Roma. E Alessandro, Peter Bescapè l'abbiamo Milano, spostato qui a Roma, a e lì si è improvvisamente comparso Alessandro Chiappini, immagino. No, in realtà l'alpino è qui a Milano e Chiappini. Ci troviamo domani alle 9.